quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Non sono mollo, quale mollo? Ci mancherebbe, se sei mollo non fai sta attività qua. Ricordatevelo, questa è la più dura al mondo. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Lo ripeto, l'unico modo per prevalere sull'ISIS è quello di creare un fronte comune sotto l'egida delle Nazioni Unite tra l'Europa, gli Stati Uniti, la Federazione Russa, la Turchia e la Cina. Un forte e organizzato intervento di terra è l'unico modo per risolvere questa situazione. I bombardamenti fanno molte vittime innocenti, producono un cumulo di rovine che non consentiranno più a chi è fuggito da quelle terre di tornare a viverci. Attaccare! Oh no, not me. I did it my way. C'è la soluzione. Ce l'ha Berlusconi. Che ha messo i panni dello statista mondiale e ha in mano la soluzione. Ascoltatelo, potenti del mondo: Obama, Putin, Assad, Califone, Cameron, la soluzione. Cina, Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, Francia. Ce l'ha Silvio Berlusconi la soluzione. Attaccare! È lì. Yes, it was Sono le 6:33 minuti. Buongiorno cari italiani. Questo è 24 mattino che arriva anche in Val Brembana, dove salutiamo Marco al lavoro. Al lavoro, ebbene sì, come tanti italiani che ci scrivono anche oggi al 349-238-6666, nostro numero per anche i vostri messaggi, anche WhatsApp ovviamente. E allora, cari italiani, siamo qui, sono le 6:33 minuti, c'è Lorenzo Nespoli. No, non c'è più Lorenzo Nespoli. Devo raccontare una cosa. Voglio subito convocare la nostra Veronica Gentili. Buongiorno. Devo subito fare una scenata. Subito, ecco qui. Paurosa. Allora, dovete sapere questo, cari ascoltatori. Ora vi informo di una cosa. Sabato scorso era il mio compleanno e ho ricevuto una stringata, striminzita telefonata di auguri da Veronica Gentili, che insomma mi ha fatto molto grazie, mi ha fatto una telefonata molto, come si fa in queste occasioni, auguri, volevo farti gli auguri, grazie. Qualche giorno prima invece era il compleanno di Lorenzo Nespoli, appunto, che conoscete in... nella nostra trasmissione. Lorenzo Nespoli non ha ricevuto una telefonata di Veronica Gentili, ha ricevuto un video di Veronica Gentili, un video questo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Non si può. Happy birthday to you. Il contratto di Lorenzo Nespoli è stato risolto dal direttore del personale. Licenziato! È stato risolto, dispiace perché era un bravo ragazzo, si impegnava, ma non c'è più qui in trasmissione. Cara Veronica, cara Veronica. Allora. Lo sapevo che avrei causato dei danni, io penso di fare del bene invece alla fine. Invece no. Ovviamente scherzo, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, così come Peter Bescapè in regia, insieme alla nostra Veronica Gentili. Voglio salutare anche il nostro avvocatone, il nostro Carlo Rienzi che torna. Carletto, come va? Buongiorno. Come va? Però certo, ricevere questi video, insomma, lo so dalla nostra a Nespoli gli vogliono molto bene, quindi i suoi amici gli fanno i regali, certo, mentre a Milan non gli vuole bene nessuno. Eccola la nostra Marilyn Gentili. Allora insieme a Carlo Rienzi non eri in a combattere con i truffati dalle banche? No, perché quella era una manifestazione un po' solo politica. Solo politica. Noi stiamo organizzando le azioni giudiziarie per la difesa, anzi abbiamo detto adesso faranno un regalino, pare che danno 4 soldi a questi qua. Quattro soldi? Sì. Quando firmate, se vi prendete i soldi, quando firmate non scrivete che rinunciate a tutte le azioni, perché altrimenti non si può agire per la differenza, cioè prendetevi i soldi e poi fate causa grazie in a acconto, Codeco. Certo. Allora ci sono 4 banche fallite, ci sono molti azionisti, molte persone correntisti che sono hanno perso tutti i soldi praticamente. Hanno perso tutti i soldi anche poveracci, sì, però Rienzi, allora qui il dibattito è sempre quello, ma se uno firma cioè, voglio dire, non è che gli mettono una mano, non è che gli estorcono una firma, no, ti dicono questo è un bel prodotto sicuro, eccetera, e tu firmi. Non è così. Perché il testo unico bancario prevede che io ti vendo carta straccia, cioè sì, ti vendo un titolo, tra virgolette, che so che è emesso da un soggetto in crisi, in default, sì, sì, o in odore di crisi, poi io sono responsabile verso di te e ti devo restituire i soldi. Cioè, una giurisprudenza che abbiamo ottenuto a partire dai bond argentini, non solo, ma io ti devo anche richiamare, se io ti vendo un titolo che è buono quando te lo vendo, per esempio Lehman, poi questo cade, titolo va giù, ti devo richiamare e dire guarda che io ho venduto le Lehman, quindi adesso rivendile subito prima che sia troppo tardi. Vabbè. È una bella giurisprudenza. No, ma è chiaro, comunque ci sono 350 milioni di buco e pare che il governo voglia metterne 100, il resto, cari amici risparmiatori, che ne so. Fate una riserva, cioè si accetta con riserva, cioè si accetta come acconto del dovuto. Sì, sì. Questo, semplicemente questo, quindi prendere questi soldi, adesso vedremo quanti verranno, e poi dopo fare il resto. Si fa causa a chi ha venduto i titoli. Si fa causa, capito, vero? Tu hai i soldi in una di queste 4 banche, Veronica? No, grazie al cielo, e penso che si trovino veramente in una situazione difficile, molto incresciosa. Detto questo, un po' è vero, cioè di situazioni in cui la gente si ritrova improvvisamente senza nulla, ce ne sono di peggiori, nel senso che qui comunque c'è un tasso di rischio e tenteranno di tamponare in tutti i modi che possono. Io mi auguro, non credo che ci fosse una volontà a monte di fregare nessuno. Sì. Poi è chiaro che la legge che è sbagliata, perché se io faccio una legge che poi è europea ma recepita in Italia, che dice che li devo salvarla io la banca, io risparmiatore, io che ho i soldi in banca e non come era prima lo Stato, sì, che cosa fa? Fa in modo che è un regalo alle grandi banche, perché certo, io avevo dei soldi che adesso la banca di Vicenza, immediatamente li vado a togliere, li vado a mettere dove? Unicredit, San Paolo, le grandi banche. Le grandi banche. Certo. Vabbè, vedo un Carlo Rienzi che combatterà su queste banche, figurarsi. Ci proviamo. Questa è una battaglia, secondo me, che affidiamo a lui, io e te non possiamo possiamo fare un granché. Tutta mattina già è iniziato con questo inizio roboante, chiamando tutti i leader del mondo, che sicuramente arriveranno ora che li hai chiamati. Di minuti. Ti piace questo nuovo Berlusconi, però versione molto statista, molto leggida dell'ONU? Non riesco più ad attaccare Berlusconi neanche impegnandomi. Esatto. Certo che sentirlo ancora pontificare di politica estera c'è da sentirsi male. Ah sì? Che tra l'altro nessuno ha mai capito, ha mai spiegato bene, ma questa minchia di egida dell'ONU cosa vorrà dire? L'egida dell'ONU è una cosa, quando io vado due o tre volte mi hanno chiamato a fare delle lezioni, insomma, di come si comunica in radio, ecco, una cosa che si dico sempre è: non dite mai l'egida dell'ONU, che se tu vai in metropolitana, dire scusi, lei sa cos'è sotto l'egida dell'ONU, sa anche cosa perché vuol dire? Potrebbe arrivare qualcuno, a un certo punto ti chiede, ma scusi, che vuol dire? E poi gli devi rispondere. Esatto. Tu, capito? Ma chi è sta egida? Cos'è sta egida? Posso spiegarti il significato di egida, però devo staccarlo lo scudo, da lo scudo, cos'è? La bandiera. Minchia dell'egida dell'ONU mi è piaciuto, pensavo di sapere questa minchia dell'egida dell'ONU, pensavo di sapere il significato di minchia, quello anche possiamo tentare di spiegarglielo, ci mettiamo in due. Esatto. Vabbè, comunque, insomma, a Berlusconi non ti piace questa nuova... No, penso che lui continui sulla sua linea a dire cose che non stanno né in cielo né in terra, perché io sono sempre più convinta che questa linea interventista, tu sai quanto io sia critica, pensi sempre e comunque, ma questa volta io veramente ringrazio il cielo che, per tutte le ragioni che vogliamo, non voglio necessariamente farne un plauso a una lungimiranza politica, però il fatto che abbia deciso di essere prudente e che dica non andiamo dietro alle bombe degli altri, io credo che sia molto saggio, perché non credo affatto che senza uno straccio di strategia a lungo termine abbia alcun senso andare a bombardare. Eccola lì, la renziana. Ecco, basta 5 minuti, basta che dico no, ma Renzi oggi non mi ha fatto niente di male, tac, la renziana. Non vorrei dire che poverina Berlusconi parla, ma le cose che faceva lui adesso le fa Renzi molto meglio. Mi dispiace offendere la Renziana, ma non l'offende, Veronica Gentile. Non scherziamo più su questa storia della Renziana, ragazzi. È lunedì mattina. L'abbiamo detto già tre volte che Renziana si sta innervosendo. Vedo già delle bolle sulle braccia, ve ne prego. No. A proposito di bolle sulle braccia, chiedono subito il selfie. Attenzione, è arrivato già il selfie. Sono già in ritardo. È arrivato il selfie di Veronica Gentili. Abbiamo provveduto, sai, con l'equipe. Esatto, il fotografo lì in ufficio, io in casa. Aspetta, no, perché sono già distratto, sto cercando il selfie. Vabbè, dai, dopo lo cerco durante il traffico. Sentite qui Alfano, anche Alfano ha la sua ricetta, tracciare tutti i voli, sentite. Noi siamo parte di questo progetto e adesso troveremo le modalità con gli altri paesi per tracciare le presenze dei passeggeri anche a livello di voli dentro l'Unione Europea. Tracciare i voli, i passeggeri, no? Ormai siamo sempre più... Adesso Renzi, dimmi che non va bene neanche questo. Cioè controllare tutti quelli che mettono piede su un aereo... Ma in questo momento va bene sicuramente. Certo, va bene. Ma comunque... Purtroppo dobbiamo fare dei sacrifici che però affidiamo a strutture di cui non ci fidiamo granché. Ma sacrifici che tanto stiamo già facendo, perché la nostra privacy non esiste più attraverso i social network, attraverso tutti i dati che forniamo, per cui c'è solo un'illusione di privacy con cui così ci fingiamo di credere di avere ancora un'identità privata e autonoma. Non è vero, e siccome tanto è necessario. Detto questo, chiaramente non è a quest'ora di mattina che potremo attaccarci la pippa su questo argomento, però la rete è uno degli aspetti fondamentali e tutti gli episodi dell'ultima settimana ce lo hanno dimostrato a livello veicolo di diffusione del califfato, anzi dell'ideologia del califfato. Mm. È anche per questo che l'idea di andare a bombardare in loco, se non hai un progetto più, più chiaro su come prevenire quella cosa. No, ma devi stare molto attento alla Renziano. Anche mi piace molto anche taggate i terroristi, allora va bene. Trovo che abbia colto il senso. Comunque arriva per esempio una domanda in diretta da su Twitter, è su Twitter che spesso trascuro. Nicola Salerni chiede: "Ma se hai l'egida dell'ONU, paghi IMU e TASI sopra?". Ecco, per esempio, questa è una domanda sensata. Sull'egida dell'ONU ci paghi l'IMU e la TASI? Vabbè, l'egida dell'ONU. Andiamo a sentire il traffico, va. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta un fuocone. Ma io prenderei un bel palo incandescente e glielo metterei in quel posto. Sul resto del Carlino c'è, cioè, la carta costa all'ennesima potenza, una pagina bianca con le istruzioni come fare gli aeroplanini di carta. Odibek, Wagner, Kegerk, Albrank, Cretelle, Yandander, Faper, dagli Urti. Oh, Milan, lo sai che sta Veronica Gentile ne sta incominciando a essere molto simpatica? Oh mio uomo, e sono Fiorentino, TST. La stamattina di lunedì mandasti la pensatrice, la scrittrice, l'attrice. Giorno prima mi avvisi e mi dici: "Guarda, domani c'è la Veronica Gentili". Ecco, sì, io fino a un giorno di ferie. Ecco, ma per fare che cosa un giorno di ferie? Cioè, perché, questo perché, è un mistero. Per ascoltare meglio? Per dormire e non sentirmi. Anche se mi dai me. Il numero del signore, io lo chiamo, così ci anche parlo tutto me. Il giorno durante le ferie. Si potrebbe, cioè, fare. Lo posso tediare, lo chiamo proprio e gli dico: "Scusi, si è preso le ferie, parli con me". Esatto, oggi stiamo al telefono, dai, un paio d'ore. È arrivato il selfie di Veronica Gentili che tenta di rimediare in maniera clamorosa. Mi manda un happy birthday via foto, con un cuoricione anche, un cuoricione rosso. E Carlo Renzi, queste sono cose che fanno bene. Ma ti lamenti sempre. Ma no, dico, sono cose che fanno bene lunedì mattina. Su internet, ma deve essere proprio lei, queste immagini relative a Veronica Gentili. Su Twitter. Hai capito? Carlo Renzi è lì, immagini, ha fatto Google Veronica Gentili, immagini. Carlo Renzi. Travaglio pure. Avvocato, calmo però, avvocato. Avvocato. Ma come sto guardando? No, ma ha detto così, insomma. Simpatico come sembra, Travaglio invece è simpatico. No, perché no, Travaglio è simpatico. Travaglio è simpatico. Ah, però c'ha una faccia, però. Carlo Renzi, facciamo una cosa. Fuori dai ruoli è simpatico. Facciamo una cosa, insomma, poco sessista. Insomma, ha visto queste foto, insomma, che voto diamo? Che voto diamo? Che voto diamo a queste foto, insomma, per il fotografo? Vabbè, sta balbettando, va bene. Sta balbettando. Comunque, Carlo Renzi, l'abbiamo ravvivato il lunedì, cara Veronica. L'abbiamo ravvivato anche a te, sei contento invece di lamentarti che nessuno ti vuol bene? No. Così no, non ho io detto. E tutti gli ascoltatori adesso possono mandarti il loro selfie per farti tanti auguri, Mr. Milan. Certo. E facciamo anche poi questo contest. Però, questo contest. Il pigiama lo possiamo mandare se vuoi. Il pigiama, certo. Ma Carlo Renzi, noi aspettiamo ancora il selfie. Carlo, anche tu dovresti mandare il selfie di auguri. Il selfie Gentile in pigiama, no? Scusa, perché questo. No, allora, vai su Twitter. Evito di diffondere foto in pigiama sui social. Pigiama party che faccio, ve le mando. Comunque, adesso anche basta, è partita questa cosa. Anche un ascoltatore, sto googlando anch'io. Veronica Gentili, immagini. Vabbè, che dovete fare? Insomma, non è che se una è bella ci possiamo fare niente. Allora, che dobbiamo fare? E tra l'altro, abbiamo scovato questo Renzi, caro Rienzi, il quasi omonimo, sulla questione delle banche. È un cognome difficile in questo periodo. Sì, no, per noi è il quasi omonimo. Il quasi meno omonimo. Male che c'è una I. Esatto. Salvate da una I. Salvate da una I e salvate le banche. Senti Renzi cosa dice sulle banche salvate. La questione delle banche è una questione molto delicata. È una questione che ormai ha delle regole europee e l'atteggiamento che ha avuto il governo è stato un atteggiamento che ha permesso di salvare quattro banche che altrimenti avrebbero chiuso quel lunedì mattina, i posti di lavoro e i depositi dei correntisti. Insomma, questo è... Ma il governo ha permesso di non licenziare questi posti poveracci, non ho capito. No, i poveracci, poi ieri al Corriere della Sera Renzi ha detto faremo qualcosa, però si sappia che hanno firmato dei contratti regolari, cioè ha detto questa cosa sulla quale un po' sono d'accordo anch'io, e così mi discopro Renziano. Mi discopro Renziano. Non è vero, non è vero. Vabbè, non sono regolari. Renziano, sai che notizia. Vabbè, sì, no, ma che sono Renziano, sai che notizia, ma fai la brava. Senti, mi hai dato della Renziana a me stamattina, per favore, qui altro beccati, che happy birthday. Che, no, problema... Esatto, Renzi ci aveva pure creduto che era Renziano. Ma come si può credere una cosa simile? No, per favore, no. C'hai già le bolle sulla pelle. Però dimmi, cara Veronica, come si vive a Roma, che domani inizia il Giubileo e insomma, anche sul fronte della sicurezza. Soprattutto abbiamo fatto un venerdì, avrete letto le ironie sui social network in cui abbiamo avuto lo sciopero di tutto lo scioperabile. Come no, certo. No, il Black Friday doveva essere quello prima, è stato questo. Target interne. Praticamente volare era l'unica possibilità che restava a Roma. E c'avevi la dispari te? E quindi io c'avevo la dispari, quindi ho fatto una giornata di dolore camminando da un posto all'altro, facendo ore di camminata, anche perché se ti mettevi in macchina comunque, anche trovando qualcun altro con la targa pari, era finita. No, quattro ore di traffico. Era più semplice, ti compravi la macchina con la pari il giovedì, te la compravi il giovedì, cioè, e andavi potevi fare tutti così. Chiamando tutti i miei vari califfi che tengo nell'armadio, ne chiamavo uno e dicevo: cavolo, mi servirebbe un attimo a paga pare. Esatto, e andavi in giro con la pari. No, e quindi vabbè, si vive male questa cosa. No, diciamo, insomma, rispetta le targhe, nessuno le rispetta, noi abbiamo solo fatto io. Ecco perché Renzi sarà per le targhe alterne, macchine. Certo, perché voi siete per le targhe alterne. No, noi siamo per il rispetto, cioè se tu metti le targhe alterne poi non le devi far circolare quelle che è vietato far circolare. E ci saranno le multe, no? Ma che cosa, che multa? Hanno fatto 150 multe su un milione di macchine che sono circolate in divieto, ma stiamo scherzando. È una fregatura. Ma Carlo, io mi domando, con tutti i problemi che abbiamo all'inizio del Giubileo, con la città che è semi paralizzata per 100 ragioni, con gli scioperi uno dopo l'altro, ma ci si può mettere adesso in questo mese a fare targhe alterne? Dai, su, ma targhe alterne. Ma poi le targhe alterne un giorno, ma le targhe alterne un giorno, ma che servono? Con lo sciopero dei bus contemporaneo. Appunto, contemporanea, capito? Ma poi hanno preso in giro Marino in tutte le salse, che l'ha anche detto: se l'avessi fatto io quello che ha combinato Tronca venerdì, venivo linciato, messo in pubblica piazza e decapitato. Ma è vero. Vabbè, ma Tronca ha eliminato i centurioni. Appunto, ma circolano i risciò, Veronica, li vedi i risciò? No, sono stati tutti quanti chiusi dentro in dei bunker, credo che adesso per tutto il Giubileo non li vediamo. Poi appena finisce il Giubileo si riaprono le porte. Certo. Sono chiusi dentro temporaneamente. Poi sono molto preoccupata perché io per la sicurezza durante il Giubileo puntavo tutto sui centurioni, adesso senza voglio vedere come saremo. Infatti, l'assalto dell'ISIS cacciato dai centurioni. Comunque devo dire, mi arrivano dei saluti e degli auguri, ma straordinari. Nadia, Ilaria dalla Finlandia ci stanno ascoltando e mi mandano una torta via WhatsApp, vabbè, queste cose. E poi c'è anche un hai capito la Veronica? Deve essere un altro che ha googlato. Basta, Carlo Renzi ha lanciato questa moda. Google, Veronica Gentili immagini. Ma è una curiosità, no? Ma è una curiosità. Giustamente dici ci parlo. Ci parlo. Fammi vedere che faccia già. È giusto. Comunque, faccia, Carlo, ti do una notizia: sta a Roma, come te. Potete anche incontrarvi a bere un caffè. Magari la ingaggi per il Codacons. Potrebbe lanciare con noi lo sportello del Pellegrino. Che tra poco presenteremo alla stampa in prefettura che riceve le segnalazioni dei cittadini, eccetera, su tutto quello che non va, sui conti del ristorante. Dai, Veronica, sto sportello del Pellegrino, vogliamo fare qualcosa? Sì, assolutamente disponibile. Lei è per i pellegrini, e quindi va bene. Lo sportello del Pellegrino.